I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. E buonasera, buonasera a tutte, ben sintonizzate sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa, quella che state per ascoltare è la nostra 242esima trasmissione. Oggi sentirete una trasmissione fuori dal comune, perché generalmente noi andiamo in diretta sempre quando c'è una nuova trasmissione, e invece purtroppo oggi siamo state costrette a registrarla prima perché saremo impegnate martedì ad un'importante riunione alla Casa Internazionale, alla quale noi come gruppo CLR non potevamo mancare, per cui niente, beccatevi questa differita, questa registrazione fatta prima. Allora, io che vi sto parlando sono Caterina, e hanno contribuito alla realizzazione di questa trasmissione anche Lucilla e Rosina. Comunque ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it, e in entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Dunque, questa sera parleremo di tutte le iniziative per sole donne organizzate per il periodo festivo che si sta avvicinando, e poi vi leggeremo anche un articolo che abbiamo trovato interessantissimo e che pone l'accento ancora una volta sulla discriminazione che noi donne subiamo in ogni ambito, proprio così, tanto per non abbassare la guardia. E l'abbiamo scelto perché tra le tante discriminazioni che toccano alle donne, talvolta se ne incontrano alcune che ancora riescono a sorprenderci per quanto sono aberranti. Il bello è che si è talmente abituate ad essere trattate da cittadina di serie Z che non ci si fa più caso. Troppo difficile sopravvivere a tutte le sopraffazioni, che alla fine la maggior parte dei maltrattamenti risultano essere il male minore. Ma le operazioni patriarcali per ridurre le donne al silenzio e in regime di schiavitù sono scientifiche, direi, ed estremamente radicali. Aggiungete poi un'abbondante dose di cultura del consenso, che parte da donna tu partorirai con dolore, fino ad arrivare al destino biologico dell'essere madre, che passa dunque dalla religione alla scienza, senza disdegnare comunque altri ambiti come l'educazione, e quindi il gioco è bell'e fatto. A volte hanno la pretesa o l'ardire di farci credere che ci trattino con favore, con un occhio di riguardo. Ora, su di noi l'occhio lo sentiamo sicuro, ma siamo certe che non sia proprio di riguardo. Ma torniamo al dunque. Abbiamo letto con interesse un articolo di Federica Seneghini uscito su Didi Repubblica qualche tempo fa e che troverete facilmente ancora su internet. Adesso però ascoltiamo un po' di musica e mandiamo un brano musicale, mandiamo un brano di una cantante che a me piace molto, si chiama Giusy Ferreri e il titolo è Il sapore di un altro no. Decidessi io non rimarrei, non mi accendo ma brucerò, se sarò un'isola la marea mi conforterà, tutto quanto sembra più forte. Quando non hai un master plan e non gira il tempo di un orologio, se distratto strappo la fotografia, né sapore né paura dentro il cuore di chi non l'ha. Ed assaggerò il sapore di un altro no. Aspetterò convincendomi poi che anche l'odio può andar bene se sei tu. Oh, oh, non dirò di chi è colpa, no, resta cieco chi non ne ha. Ciò che fu, e sentendosi da solo scoperto, il protagonista non sarei più io. Fossi me, berrei, ma mai perderei la mia realtà. Il sapore di un altro no. Aspetterò convincendomi poi che anche l'odio può andar bene se sei tu. Oh, oh, non dirò di chi è colpa, no, cresce sempre poco chi non ne ha. Come vi avevo detto nell'introduzione di questa trasmissione, vado ora a leggere l'articolo di Federica Seneghini dal titolo Dilettanti per forza, anzi per legge. Medaglie, record e vittorie non bastano. In Italia le atlete rimangono sempre in Serie B. Quando inizi a fare sport da piccola, non ti chiedi se un giorno sarai così brava da trasformare la tua passione in carriera e se avrai mai una pensione. Col tempo, però, capisci che essere donna e atleta implica tanti, forse troppi, compromessi. Mara Invernizzi ha 32 anni ed è una giocatrice della Pilot Italia Biossano Basket, Serie A2, dopo anni in A1 e anche in nazionale, e di compromessi ne ha dovuti fare tanti: clausole antimaternità, stipendio di 10 mensilità, spesso camuffato da rimborso spese, assicurazioni da integrare personalmente e fondi pensione autonomi. Molte di noi si devono far aiutare dai genitori oppure hanno un secondo lavoro che però sottrae tempo agli allenamenti. I nostri colleghi maschi, invece, a questi livelli, sono considerati professionisti per legge e godono di tutte le tutele del caso. In effetti pochi lo sanno, ma in Italia nessuna delle stelle più o meno famose dello sport femminile può dirsi davvero professionista. Pellegrini, Schiavone, Cagnotto, semplici dilettanti. Soltanto la federazione pugilistica prevede un settore di professioniste femminile, attualmente composto da 8 atlete. Per capirci, il dilettantismo forzato impedisce alle atlete di avvalersi della legge 91-81, quella che regola i rapporti con le società sotto ogni aspetto, dall'assistenza sanitaria al trattamento pensionistico, e dunque le esclude dalle tutele previdenziali previste dall'ENPALS per i professionisti, non riconosce loro il diritto ad un contratto tipo né all'eventuale TFR, come spiega Luisa Rizzitelli, presidente dell'ASSIST, che è l'Associazione Italiana per la Tutela delle Sportive. Ma le donne sono anche assenti a livello dirigenziale. Né il CONI né le 45 federazioni sportive riconosciute hanno infatti mai avuto una presidente donna. Sarà un caso? Il secondo capoverso dell'articolo si intitola Sette rosa e sette bello. Le discriminazioni sono anche economiche. Spesso i premi federali femminili valgono meno della metà di quelli maschili, dice Vera Carrara, 30 anni, campionessa di ciclismo su pista, specialità corsa a punti, e vincitrice di 7 medaglie. L'oro dei mondiali, per esempio, valeva 20.000 euro contro gli 80.000 della gara maschile, ma anche in altre discipline il divario è quasi imbarazzante. Nonostante i divieti della Federazione Atletica Leggera, spiega ancora Rizzitelli, alcune gare podistiche continuano a prevedere, a parità di regole e chilometri percorsi, premi maschili superiori rispetto a quelli femminili. Come la Maratona di Padova, che nel 2009 gratificava il primo classificato con 6.000 euro, ma soltanto 2.000 per la vincitrice donna. Si registrano disparità di trattamento a livello nazionale anche quando le prestazioni delle donne sono migliori di quelle dei loro colleghi, come nel 2001 ai mondiali di Fukuoka, quando il 7 rosa, cioè la nazionale femminile di pallanuoto, conquistò l'oro per la seconda volta di fila. Il premio previsto dalla Federnuoto era di 26 milioni contro i 40 che sarebbero andati agli uomini in caso di vittoria. Ma già l'anno precedente la Federazione Italiana Nuoto aveva abolito il gettone di qualificazione femminile, nonostante la nazionale fosse campione del mondo e d'Europa in carica, per l'Olimpiade di Sydney, mantenendo invece quello maschile. D'altronde, i pochi studi fatti sul tema parlano chiaro. Secondo un'indagine nazionale del 2007, il 45% delle sportive ritiene di essere trattate in modo non uguale agli uomini, il 21% denuncia episodi di discriminazione e soltanto il 29% viene retribuita per svolgere l'attività sportiva agonistica. Del resto, solo il 14% ha una retribuzione fissa. L'altro capoverso che vado a leggere si intitola Non resta che la divisa. Basta parlare con le atlete per rendersene conto. Quando giocavo in A2, un anno su 10 mensilità ne ho prese solo 4, racconta la pallavolista Marta Confalonieri, 25 anni, oggi in B1. Tra allenamenti quotidiani e partite nei weekend resta poco tempo per lavorare, ma molte tra noi lo devono comunque fare. Anche Vera Carrara ne sa qualcosa. Fino ai 24 anni mi allenavo e facevo gare non sapendo se alla fine, a fine anno, sarei stata pagata. Ma non avevo le spalle coperte e quando ho avuto un incidente mi è toccato pagare di tasca mia le spese. Poi la scelta di arruolarsi nelle Fiamme Gialle. mi ha garantito una certa sicurezza, potevo dedicare tutto il mio tempo allo sport, perché i gruppi sportivi delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco sono amministrazioni pubbliche autorizzate all'assunzione diretta di atleti di interesse nazionale, in base alla legge 78 del 2000. Il risultato è che ancora oggi circa il 75% delle medaglie italiane vengono vinte da atleti che fanno parte di gruppi militari. 2 anni fa a Pechino, 34 su 43. Grazie all'arruolamento, le donne godono delle necessarie tutele, a cominciare dal diritto alla maternità. Nelle serie minori si sottoscrivono ancora scritture private con clausole antimaternità. Io stessa, per 15 anni, ho firmato contratti del genere, spiega Rizzitelli, ex pallavolista, ma nel percorso verso la parità ci sono anche esempi virtuosi, come la scherma, dove, a fronte della mancanza giuridica di regole moderne, sono stati fatti dei passi giusti. Altre volte, invece, è meglio far finta di niente, come nel caso di Josefa Idem, canoista da 5 medaglie olimpiche e altrettanti titoli mondiali, che ha ammesso di aver nascosto la sua gravidanza durante i mondiali. «Non ho osato sperimentare su me stessa l'assenza di regole. Ho disputato il mio mondiale incinta, perché in Italia non ci sono leggi che tutelano quello che di fatto per molte di noi è un lavoro a tutti gli effetti». Bene, io direi di fare un attimo un breve stacco musicale e andiamo ad ascoltare un brano che a me piace molto, soprattutto la cantante. Io ero molto affezionata a questa cantante, si tratta di Gabriella Ferri e il brano è Anche tu così presente. Di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio. Così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello. Anche tu così presente, sempre, così solo nella sempre, sempre, sempre. Che nessuno canta più, come un vecchio ritornello, che nessuno canta più. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto le parole di tanta gente. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello. Nessuno canta più, come un vecchio ritornello, che nessuno canta più. Anche Bene, ritorniamo ora alla lettura dell'articolo e c'è un altro capoverso che ha questo titolo. Una questione di share? Un passo avanti è stato fatto nel 2007, quando il CONI ha varato l'articolo 29 dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sulla tutela sportiva delle atlete in maternità. In pratica chiede di garantire la posizione sportiva delle atlete per tutto il periodo della gravidanza e fino al rientro all'attività, mantenendo loro il posto in squadra e facendo congelare i meriti acquisiti. Ma bisogna fare di più e in un quadro più ampio, dice ancora Rizzitelli. Atleti e atlete che praticano lo sport come attività prevalente debbono avere una legge che riconosca il loro lavoro. La pensa diversamente invece Manuela Di Centa, 47 anni, ex campionessa dello sci di fondo, oggi deputato del PDL. Sarebbe prioritario pensare alla tutela previdenziale a prescindere dall'inquadramento tra i professionisti e i dilettanti. Stiamo cercando di arrivare ad un emendamento di legge che tuteli le donne sotto questo aspetto. Uno dei motivi che fa percepire lo sport femminile come minore è comunque la mancanza di visibilità. Le notizie che riguardano le attività sportive delle donne rappresentano l'11% del totale, spiega Valeria Ottonelli del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Genova, che ha coordinato la parte italiana dello studio Sport, Media e Stereotipi, promosso dal Centro di Genere di Qualità Islandese. Tolte le notizie sui pochi eroi femminili e gli stereotipi di genere, rimane davvero poco. Eppure, se il pubblico ne ha la possibilità, lo sport femminile lo segue e come. Un esempio? Le partite del World Grand Prix della Nazionale della Pallavolo Femminile, che in estate sono state trasmesse in chiaro sulla 7, in un pomeriggio torrido di metà agosto Italia-Brasile ha totalizzato 1,8 milioni di contatti con un picco del 6,22% di share. Spesso invece l'assenza di visibilità mediatica ha ripercussioni nel già scarso interesse degli sponsor, anche verso squadre vincenti ai massimi livelli. Per salvarsi si arriva a fare di tutto, come le atlete olandesi che nel 2003 posarono nude per finanziarsi la partecipazione alle Olimpiadi, o come le Matildas, la nazionale australiana di calcio, che con un calendario pagarono la propria spedizione al mondiale. Lo stesso hanno fatto le atlete del Palermo Volley Serie A1 per salvare la propria società che rischiava di chiudere a causa di un passivo finanziario. Ed ecco l'ultima parte dell'articolo che si intitola Tra sponsor e pregiudizi. Perché senza sponsor non si va lontano e, come accade sempre, anche nello sport, in tempo di crisi le prime a pagare sono le donne, dice Marcella Valentini, assessore alle pari opportunità della provincia di Modena. Nel 2009 le squadre femminili del basket Cavezzo e del Sassuolo Volley hanno dovuto rinunciare al campionato A1 per mancanza di fondi. Tra costi in aumento e scarsa visibilità era davvero impossibile continuare, denuncia Enrico Corsini, presidente del Cavezzo. La RAI pretendeva perfino di essere pagata dalle società per venire a filmare le partite, che poi però trasmetteva a tarda notte sul canale satellitare. Il servizio pubblico certo non ci aiuta. Molti pensano che questi sport non abbiano sufficiente traino di pubblico. Vero o falso? In realtà queste sono squadre legate al territorio, cresciute grazie a un vivaio seguito con cura che ha una funzione sociale di aggregazione ed educazione importante, aggiunge Valentini. La partecipazione al campionato di A1 avrebbe potuto diventare un investimento per le realtà locali, anche in termini promozionali e di ritorno di immagini. Insomma, se lo sport è donna, tutto cambia e stride con la platealità di queste differenze la consuetudine di leggere le difficoltà delle sportive in chiave individuale, familiare, più connessa a dinamiche psicologiche che all'azione di meccanismi sociali. Si legge in una ricerca del CIRSD dell'Università di Torino, cioè sarebbe il Centro Interdisciplinare di Ricerchi e Studi sulle delle Donne, perché il luogo comune, anzi il pregiudizio secondo il quale le donne nello sport restano lontane dalle posizioni di vertice, dall'agonismo ai massi livelli e dalle responsabilità, per proprie inclinazioni naturali che le orientano verso luoghi in cui riescono meglio, in campo, in pista oppure in piscina, non ha davvero riscontro, anche se le pari opportunità rimangono lontane. Bene, questo era l'articolo che a noi è piaciuto tantissimo, anche perché mette a nudo una realtà che veramente pochi sanno e se vi è piaciuto potete andare a trovare sicuramente in internet, ripetiamo, è stato pubblicato il 2 novembre del 2010, quindi di quest'anno, su di Repubblica. Bene, io direi di ascoltare a questo punto un brano musicale con un titolo veramente significativo. Il brano è di Fiorella Mannoia e si intitola Se veramente Dio esisti. Signore mio, dacci un santo, un artista, Padre eterno, che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene per continuare in tempo di guerra magari a campare. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia vita la nostra, ma vita senza la noia, senza la pena di queste giostre, le mie, le loro, le vostre, per quando ci mettono nelle liste e ci vogliono sparare, voi la mira gli dovete sbagliare. Femmina che sappia inciarmare per noi, se ci vengono a cercare, diteci a chi dobbiamo votare, sta roba dove si deve buttare, fateci fare un poco di mare. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Signore mio, dacci un santo, un artista, Padre eterno, che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, che ci faccia allungare la vista oltre le porte per vedere la luna eppure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene per continuare in tempo di guerra magari a campare. Esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Vita senza la noia. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per ascoltare subito ciò che stiamo dicendo e quindi essere subito con noi. Potete contattarci qui là in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche il numero di cellulare sul quale inviare i vostri SMS durante tutto il periodo della trasmissione, 339-853-6270. Per ultimo potete anche farci sentire che ci siete utilizzando i trillini, cioè far squillare il telefono di Radio Onda Rossa 06 49 17 50 una sola volta e poi riagganciare. Questi trillini ci fanno sempre molto molto molto molto piacere e quindi ripeto ancora il numero sul quale potete fare i trillini, che è lo 06 49 17 50, il numero dove potete inviarci fino alle ore 22 gli SMS, che è il 339 853 6270, la nostra mail, che è contatti@clrbp.it, e anche il nostro sito web, che potete andare a visitare, www.clrbp.it. Gli appuntamenti. Bene, adesso andiamo a dare lettura di tutta una serie di appuntamenti per far vedere come si organizzano le lesbiche durante le festività natalizie e per permettere a tutte coloro che ancora non si sono organizzate di potersi aggregare ad uno dei tanti eventi proposti. Dunque, cominciamo subito con il primo, a noi molto caro, chiaramente. Allora, il Centro Femminista Separatista vi invita all'ottava edizione della Lesbo Tombola, in programmazione sabato 18 dicembre dalle ore 20.30 al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B. Andiamo a vedere il programma, in che cosa consiste. Dunque, alle 20.30 cena di autofinanziamento del CFS, alle 22 l'ottava edizione della Lesbo Tombola, che ha dei premi bellissimi quest'anno, e a seguire il CFS festeggia con tutte. L'evento, ricordiamo, è aperto alle sole donne e per informazioni potete contattare il Centro Femminista Separatista, che ha questo numero 06 68 64 201, oppure potete scrivere una mail al CLR, che è contatti@clrbp.it, oppure potete andare a visitare il sito, che è www.clrbp.it. Vi invitiamo anche a divulgare questa notizia perché ci piacerebbe vedervi in tante. Poi il secondo appuntamento, diciamo, organizzato è un Capodanno in masseria. E questa è la mail che ci hanno mandato. Stiamo organizzando il Capodanno solo donne alla masseria Sant'Anna di Monopoli Alberobello. Nel periodo tra il 31 dicembre, con possibilità di anticipare al 30, e partenza il 2 gennaio, ma se volete potete rimanere ancora. Andiamo a leggere anche qui il programma di massima, certo non è nei dettagli ancora. il 31 dicembre cenone e festacchione di fine anno, il 1 gennaio pranzo e cena con giochi e animazione e il 2 è prevista la partenza entro le ore 12. Le donne che organizzano questo Capodanno in masseria ci tengono a precisare che i posti sono limitati, quindi se siete interessate andate a cercare in internet www.masseriasant'anna.it/contatti oppure scrivete a masseriasant'anna@libero.it. Anche loro vi aspettano numerose e garantiscono una bellissima armonia. Andiamo a leggere ancora un altro appuntamento previsto in questo mese di dicembre, esattamente il 12 dicembre alle ore 19 il CDM presenta il 27esimo compleanno del Circolo con un concerto di Melissa Ciaramella. E andiamo a leggere anche qui la mail che ci è arrivata. Quest'anno sono 27 e con la sede rinnovata sarà un compleanno davvero speciale. Graditissima ospite sarà Melissa Ciaramella, la cantautrice romano-siciliana che già abbiamo applaudito l'anno scorso in concerto da noi e poi a Roma durante le 5 giornate lesbiche. Sarà ancora un viaggio emozionante e un viaggio emozionale che parte da timide insicurezze per esplodere in un'energica rivalsa di passione. Con Melissa l'interpretazione acustico sprigiona l'intensa passionalità che attraversa le note e le parole delle sue composizioni. Il calore che vogliamo per la nostra festa, la festa del Circolo e di tutte le donne che lo frequentano. E allora vi aspettiamo per soffiare sulle candeline e tagliare la torta col Circolo lesbico più antico della città che non si stanca mai di stupirvi con la sua tenacia e vitalità. Allora, ricapitolando, domenica 12 dicembre dalle ore 19 concerto di Melissa Ciaramella. Per le socie ingresso, buffet, prima consumazione e tessera, valida fino a dicembre 2011, sarà di 7 euro. Per le nuove invece l'ingresso, il buffet, la prima consumazione e la tessera, e anche qui la tessera sarà valida fino a dicembre 2011, sarà di 15 euro. Tutte le nostre attività sono rivolte alle nostre socie, la tessera associativa costa solo 15 euro ed è valida per tutto l'anno, quindi fino a dicembre 2011, e può essere richiesta direttamente la sera dell'evento in cui si desidera partecipare. A Milano partecipa anche tu e sostieni il più antico circolo lesbico della città. Ultima iniziativa che ci è arrivata e di cui diamo notizia è Natale e Capodanno alla porta dal solstizio d'inverno alla Befana. Alla porta, nelle notti più lunghe dell'anno, quando il bosco crepita sotto la neve e la luce di Sirio risplende alta nel cielo, ci scaldiamo con i nostri sogni al tepore del focolare. Ci incontriamo per giocare, raccontarci storie, scrutare le posizioni degli astri del nuovo anno, fare musica, tarocchi, ridere, nutrirci con piacere, festeggiare, danzare e passeggiare nella neve. Attività dal solstizio d'inverno. Allora è previsto un programma di massima di questo genere, di questo tipo. Il 24 dicembre cena indiana, 25 dicembre mica mele, teatro con l'importanza di lavarsi presto. catechesi di purificazione di e con Micaela Cappucci, protagonista è la Suor Melodia, l'irremovibile e castissima monaca che con caparbietà persegue la missione di salvare le pecorelle smarrite. Io questo spettacolo l'ho visto quest'estate alla masseria, è esilarante, consiglio veramente tutte di andarlo a vedere se possibile. Poi il 26 dicembre giochi intorno al tavolo in un giro d'inverno con Rosanna Klinko, esperta di cultura ludica. E riscopriamo il senso del gioco per il benessere, la condivisione, impariamo a costruire giochi e a divertirci giocando. Tra il 27 e il 30 dicembre, La madre come utero con Annalisa Malerba, agricoltrice, e La piccola Ipazia, utero fertile, organo sterile, come far rivivere la madre, la fertilità del suolo. Lupas in fabula, come l'acqua che scorre, una storia ne continua un'altra, intorno al fuoco diamo forma alla nostra immaginazione inventando nuove storie. Poi cena e festa di Capodanno, il 1 gennaio 2011, la magia dei tarocchi e uno sguardo al cielo del nuovo anno. Per tutte le informazioni, per saperne di più, potete andare praticamente a questo indirizzo, laporta@women.it. C'è anche un recapito telefonico 051, quindi sono di Bologna, 051 91 42 55. Ripeto, l'indirizzo di posta elettronica è laporta@women.it. E con gli appuntamenti abbiamo finito. Quindi direi di ascoltare tutto sommato un altro brano musicale. Ascoltiamo per esempio, che ne so, ah sì, la canzone che dovevo andare la settimana scorsa, che poi invece è andata un attimino tutto in tilt e qui non sono riuscita a metterla. Il brano è di Dolce Nera, Resta come sei. Ok? Allora, buon ascolto. Guarda Laura, che non devi avere più paura. Cosa provi per la tua migliore amica? Quel tuo avere in gran segreto un'altra vita. Guarda Laura, che tua mamma non l'ha ancora capito. E chi c'è chiusa dentro di te? Chi è l'altra parte di te che se ne sbatte del giudizio di tutta questa gente che ti dice prepotente? Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. E invece resta come sei, e la tua vita non cambiare mai, e la tua sfida resta come sei. Tu sai amare, non cambiare mai, non fai del male, non fai del male. Guarda Laura, che non devi avere più paura. Lascia perdere chi pensa che ci sia una cura. Non ci credere a chi è vittima della sua cultura. Guarda Laura, non puoi fingere tutta la vita. E chi c'è chiusa in quella stanza? Sei te, che ne hai abbastanza del giudizio della gente che non sa niente, che ti dice prepotente. Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. E allora resta come sei, e la tua vita non cambiare mai, e la tua sfida resta come sei.